Oggi, in occasione dei preparativi per Pesach, i preparativi per Pesach sono preparativi di natura pratica, ma i preparativi devono essere anche di natura spirituale, non solamente come abbiamo fatto prima, ricordando sempre le halachot, che è importante sapere per Pesach, ma anche dal punto di vista del nostro servizio di Hashem, la nostra avodat Hashem, il lavoro dell'anima. Ogni Moed ci trasmette un messaggio speciale e ogni Moed rappresenta un momento speciale, momento nel quale cerchiamo di rientrare, diciamo così, almeno in minima parte, per apprezzare la profondità e soprattutto attraverso questo apprezzamento della sua profondità, crescere attraverso questo Moed e legarsi a quello che la Torah ci sta trasmettendo in questo momento. Allora c'è un discorso, un Ma'amar, un discorso di Hasidut del Alter Rebbe, dell'autore del Tanya, che lui ha recitato questo discorso il primo giorno di Pesach dell'anno 1811. In questo discorso lui ha detto così: per quale motivo Manishtana, per quale motivo è diverso? È diverso il Moed di Pesach da tutti gli altri Moedim. Cosa si intende? Quando c'è un Moed che festeggia un giorno di miracolo, un evento miracoloso, una salvezza, normalmente il giorno in cui si festeggia è il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il miracolo. Cioè, già è avvenuto il miracolo. E il giorno dopo ci siamo riposati, abbiamo festeggiato. Così si fa per esempio per Purim. Il miracolo è stato il 13 di Adar e la festa si festeggia, come è scritto nella Megillah, il 14 di Adar. Invece quando nella città di Shushan hanno continuato a combattere anche il 14, si sono riposati il 15, infatti festeggiano Purim il 15 di Adar. Anche Hanukkah. Hanukkah è stato fissato nel giorno in cui si sono riposati, cioè hanno cessato la guerra contro i nemici il giorno precedente. Questo era il giorno della Menucha. Infatti Hanukkah è anche un acronimo, un insieme delle parole Hanu, si accamparono, si riposarono, Kafei il 25, che sarebbe il giorno in cui si è fissata la festa di Hanukkah, no? Mentre invece, per ciò che riguarda la festa di Pesach, il miracolo, qual è il miracolo principale? Questo è anche interessante. Qual è il miracolo principale per il quale, cioè che corrisponde proprio alla data di Pesach, alla sera del 15 in particolare, perché c'erano molti miracoli che sono accaduti sia in precedenza che di seguito. Qual è quello che è accaduto proprio allora? Era il Nes, il miracolo dell'ultima piaga, Makat Bechorot, la piaga dei primogeniti. In quanto in quella sera che è accaduta la piaga dei primogeniti, Passach, HaKadosh Baruch Hu, andò oltre, saltò oltre, per così dire, le case dei Bene Israel, mentre al tempo stesso colpiva nelle case dei Mitzrayim, dei Mitzrim, degli egiziani. L'orario esatto, tra l'altro, è proprio mezzanotte della sera del 15 di Nisan, Chatzot. Ed è proprio in quel momento in cui in cui si festeggia la parte più importante di quella sera del Moed di Pesach, con il consumare il Korban Pesach, sul quale si recita il Hallel, la mitzvah del ringraziamento, della preghiera di ringraziamento, l'Hallel, perché Hallel si dice la sera di Pesach non solamente una volta, anche durante, in molti riti si dice Hallel dopo Arvit, la sera delle prime due sere di Pesach. A Roma non si usa, però in molti riti si usa, ma tutti usano dire Hallel all'interno dell'Haggadah. Cos'è questo Hallel? Questo è un Hallel legato al Korban Pesach, cioè legato al miracolo che è avvenuto in quella notte proprio. E e non si festeggia il giorno successivo, ma il giorno stesso in cui è avvenuto il miracolo. Questo vuol dire che a livello spirituale c'è una differenza tra Pesach e gli altri Moedim che abbiamo citato, che si festeggia dopo che è avvenuto. Questo si festeggia invece al tempo stesso. Anche se pensiamo in Egitto, nello stesso momento in cui avveniva il miracolo, loro festeggiavano il Pesach, perché facevano il Korban Pesach quella sera. Ok, allora vuol dire anche la prima volta stessa che è avvenuto, si facevano insieme entrambe le cose. Cioè, entrambe le cose sono avvenute al tempo stesso. Che cosa rappresenta questa idea? Allora l'Alter Rebbe dice, per poter entrare nella profondità di questo discorso, bisogna anticipare un altro discorso generale, legato al modo in cui HaKadosh Baruch Hu si rapporta ai mondi, cioè alla creazione, ai mondi è modo di dire Olamot, i mondi, cioè la realtà creata. E questo è un tema che abbiamo già affrontato nel Umayyan, che studiamo sempre nella Hasidut, in quanto ci sono due, appunto, modalità con le quali HaKadosh Baruch Hu si rapporta ai mondi. Il primo si chiama Sovev Kol Almin, circonda tutti i mondi, e il secondo si chiama Memale Kol Almin, riempie tutti i mondi. Cosa significa? Iniziamo dal secondo. Riempie tutti i mondi vuol dire che HaKadosh Baruch Hu, in una delle modalità in cui si rapporta alla creazione, lo fa attraverso un flusso di energia, un'illuminazione divina, che però è rapportata in maniera proporzionale a quello che è la creazione. Quindi ogni creatura in maniera diversa. Perché ogni creatura è diversa dall'altra. Perché è diversa? Perché il flusso divino è diverso. Cioè è un incanalare in una maniera molto specifica, molto molto limitata, delineata. Per questo si chiama riempie, come se si riempisse un bicchierino in una maniera e una bottiglia in un'altra. E c'è una forma, esatto. Come se già ci fosse una forma. E questo va a riempire la forma, ma questo si può approfondire, perché può anche essere che le due cose avvengono insieme, diciamo, la forma e la... Prende forma mentre si... Questo si può approfondire un po'. Bene, e a questo si lega tutto il concetto della Hishtalshelut, la famosa catena che va dall'alto verso il basso, perché si usa la metafora della catena, come abbiamo anche già visto. Perché la catena che cosa è? È un insieme di anelli in cui la parte superiore dell'anello inferiore è legata alla parte inferiore dell'anello superiore. Ok? Quindi ognuno è legato all'altro, però c'è una discesa. C'è un legame che però porta da... la parte bassa di livello A diventa la parte alta di livello B, e così andando giù, discendendo, c'è questa contrazione, questo continuo nascondimento celare della presenza divina sempre di più, finché rientra appunto in questo limite che stavamo dicendo prima, per poter rapportarsi ad ogni elemento della creazione secondo il proprio limite, secondo le proprie impostazioni. Questo per ciò che riguarda, in breve, il aspetto che si chiama memalè, riempiente, riempimento. Aval, ma dall'altra parte abbiamo il primo livello che abbiamo menzionato prima, sovev, che circonda letteralmente, che non si intende di nuovo letteralmente qualcosa che circonda, si usa la metafora della cosa che circonda per dire che è tutto uguale. Come un cerchio, una sfera, non ha né inizio né fine, né sopra né sotto, allora è come per dire che questo è un aspetto del rapportarsi da parte del divino, quindi una luce divina, se vogliamo, usare sempre questa metafora che si usa nella Kabbalah della luce, che illumina verso la creazione in maniera equa e uguale per ogni tipo di creatura e ogni tipo di creazione che c'è all'interno appunto della creazione. non c'è precedenza o, scusate, o importanza rispetto a qualcosa di più elevato o meno elevato, più limitato o meno limitato. Se fa parte della creazione è tutto uguale, non ci sono differenze per ciò che riguarda questo aspetto della luce di Hashem. Ovvero, questo non è legato al concetto di Ishtalshelut. Ishtalshelut è una cosa che ha una certa struttura. Qui lo chiamiamo circonda proprio perché trascende questa struttura, proprio perché siamo al di fuori di questi, tra virgolette, limiti. Ok? Quindi, in altre parole, stiamo parlando di un aspetto della manifestazione, della illuminazione che viene da Kadosh Baruch Hu, che è talmente elevato che le differenze tra una parte e un'altra della creazione non hanno nessuna rilevanza. È come se dicessimo la luce e l'oscurità è uguale davanti a lui, da questo punto di vista di rapportarsi alla creazione. Se parliamo del livello che già abbiamo chiamato riempie, Ishtalshelut, allora lì, tra giorno e notte, per dire metaforicamente, c'è differenza. Perché giorno rappresenta più illuminazione, notte rappresenta meno illuminazione, più oscurità, eccetera. Ma da questo punto di vista del livello trascendente non c'è alcuna differenza tra giorno e notte. Entrambe fanno parte di creazione, entrambe sono, diciamo così, al di fuori dell'essenza del divino e in qualche maniera sono avvolti, per così dire, da questa stessa luce nella stessa maniera, senza distinzione di cosa c'è dentro. Uniforme, c'è un'uniformità. Si risolve la forma dopo. Esatto. Per esempio, possiamo, come abbiamo anche già visto in altre lezioni, l'esempio della luce del sole, no? Usiamo solo in maniera limitata questa metafora perché non è che corrisponde esattamente a quello che vogliamo dire. Però la luce del sole, se abbiamo delle vetrate e in queste vetrate ci sono, come si usa, vari colori. Allora, per chi si trova da questa parte del vetro, la luce appare in maniera diversa. Questa è una luce verde, questa è una luce rossa, questa è una luce blu, eccetera. Ma chi sta dall'altra parte, non c'è alcuna differenza. La luce del sole, effettivamente, obiettivamente, è quella. In altre parole, la luce del sole non prende in considerazione dove deve arrivare e quindi deve in qualche maniera adeguarsi. Adeguarsi vuol dire anche cambiarsi, mutare in base alle circostanze di chi riceve la luce. La luce del sole non fa assolutamente nessuna di queste considerazioni. È solo che chi riceve è condizionato da quello che è, effettivamente, quindi dai propri limiti, e in quella maniera in cui è condizionato, secondo quelli che sono i propri limiti, limite non vuol dire solamente restrizione, è legato, ma vuol dire anche definizione. Se questo è definito come blu e questo è definito come rosso, è un limite, perché è blu e non è rosso, è rosso e non è blu. Questo è un limite, no? Per dire. Allora, secondo i propri limiti, secondo quello che è, riceve, accetta. E anche nella sfera interpersonale, sociale, si potrebbe applicare questa metafora. Perché potrebbe essere una persona, per esempio, emana della luce, cioè, diciamo che emana un'energia positiva verso gli altri, ma come è percepito non sempre nella stessa maniera in cui è stato emanato. Perché? Allora quella persona potrebbe dire, ah, forse ho una colpa, forse no. Non necessariamente. Dipende, tra virgolette, dal recipiente, ovvero da chi riceve. Se il recipiente è formato in una determinata maniera, psicologicamente, soggettivamente per quello che è relativamente alla situazione del momento, eccetera, quello che sia, può percepire quell'energia che gli arriva in una maniera assolutamente soggettiva a quello che lui è. Quindi potrebbe darsi che una persona emana un sentimento che possiamo paragonare, tra virgolette, all'aspetto che circonda, cioè positivo in assoluto, senza interessi, e l'altra persona lo percepisce come se invece ci fossero gli interessi, ci fosse un interesse, e c'è magari pure chissà che cosa con il pensiero dietro, eccetera. E quello ci rimane male, dice: scusa, io non avevo questo pensiero. A volte può essere che sia così perché è condizionato da chi riceve. Per dire, questo sono delle metafore per avvicinare un po' il concetto che stiamo spiegando, l'aspetto che circonda, che è quello trascendente, e l'aspetto che riempie, che è quello che invece si limita al recipiente, tra virgolette, cioè a chi riceve. Ok, ora. Per approfondire un pochino, l'Alter Rebbe dice in questo discorso che non è che stiamo parlando di due cose che sono completamente distinte l'una dall'altra, in realtà funzionano insieme, ovviamente vengono dalla stessa fonte e funzionano insieme, una dipende dall'altra, in quanto l'aspetto principale della manifestazione interna, quella che riempie, è proprio per rapportarsi in maniera diretta con quella che è la creazione. In maniera diretta vuol dire appunto proprio in base ai limiti e le definizioni di chi riceve. Quindi deve essere per forza diverso per un tavolo o per una bottiglia o per un uomo o per un animale. Perché vuole proprio essere. Venire a far parte, a identificarsi con quella cosa, che quella cosa si identifica con questa energia divina specifica che fa sì che esista in questa maniera e non in un'altra maniera. Questo si chiama una rivelazione interna. A differenza di una rivelazione che avvolge vuol dire dall'esterno, e qui si applica questo concetto dell'avvolgere all'altro livello che dicevamo, quello che circonda. Qui stiamo parlando dell'aspetto interno, interiore, e quindi applichiamo anche la metafora di interiore e esteriore a queste due manifestazioni. Ma interiore e esteriore sono due facce di un'unica moneta. Ogni cosa può essere vista dal punto di vista interiore e dal punto di vista esteriore. Non è che sono due cose distinte. Sono due aspetti di un'unica cosa. E quindi, in base a quanta energia viene messa verso l'interiore di chi riceve, diciamo così, in base a questo, come dicevamo prima, sarà creato il tipo di creatura specifica. Se questa energia, questo flusso interiore è più rivelato, allora la creazione nella quale viene rivelato questo è più raffinata, è più in un certo senso più elevata, tra virgolette. Cosa intendo dire? Faccio l'esempio contrario, dove l'energia e quel flusso vengono più nascoste all'interiore e non vengono in maniera più rivelata. Allora l'oggetto o la creatura che sia è meno raffinata. Quindi quando parliamo di mondo minerale, per esempio, perché questo è minerale e questo è vegetale? Perché qui si vede meno la vitalità e qui si vede di più la vitalità? Perché questo flusso di energia interiore viene di meno in maniera rivelata in quello che poi diventa mondo minerale, per esempio, dove sembra tutto morto. E viene di più nel mondo vegetale, dove tu vedi più il flusso di vita, vedi la crescita, vedi il cambiamento. Di nuovo, allora, quindi non è che c'è il recipiente e in base a questo recipiente HaKadosh Baruch Hu manda un flusso specifico per quel recipiente. Il flusso specifico è quello che fa sì che il recipiente sia in quella maniera. Quando è più rivelato, allora anche la vitalità dell'oggetto, della creatura che sia, è più rivelata, è più evidente. Rivelato e evidente. Quando è meno, è più nascosto, più circoscritta la presenza, allora è sempre presente, ma più in maniera meno evidente, allora anche nella creatura stessa che sia, si esprime meno in evidenza quella energia, quel flusso, quella vitalità. Meno rivelato. Meno rivelato, esattamente, quindi meno evidente, esattamente. Sì. Ma l'energia nel suo complesso quindi è sempre la stessa. Oh, esattamente. Quello che vogliamo arrivare. Se si doveva finire, ma non si disperde, domanda. Non si crea. No, come? È condizionato. Sì, no, cioè Kadosh Baruch Hu si ipoteticamente a seconda di dove va a finire questa energia si accresce o nulla si crea, cioè è sempre la stessa, anche se parlo di metafora ovviamente, però cioè se va verso un sasso quello rimane sempre sasso, no, se va verso una persona o una vegetale può la persona cosa diventa, un alieno? No, voglio dire rimane in generale in quella categoria, sì, per carità, però voglio dire ci può essere un qualche cambiamento se cioè in base parlando di persone, esatto, alla reazione in conseguenza di questo flusso vitale da parte della persona, assolutamente sì, come si parla di riempimento, però per gli oggetti no, l'energia non è detto, adesso vediamo che scende e che riempie, può modificare, può accrescersi ancora di più o è sempre quella, cioè può tramite questa rivelazione diciamo che in generale accrescersi ancora di più il livello di energia nel mondo quello, allora per chiarire un pochino quando noi stiamo parlando di questo aspetto interiore della creazione, in realtà non stiamo parlando di qualcosa di diverso da ciò che già vediamo. Ciò che già vediamo, noi stiamo semplicemente guardando il DNA spirituale della cosa. Quindi la realtà che noi conosciamo, che vediamo che ci sono alcune cose che possono essere cambiate nel corso della loro esistenza, altre non possono essere cambiate, altre si cambia la forma, altre si cambia un po' la sostanza, si chiama, che ne so, è l'acqua che cambia da gas in liquido, in solido, tante cose che noi guardiamo, vediamo nella natura. Tutte queste cose sono incluse in questo DNA spirituale che va a riempire, tra virgolette, che va a creare in maniera specifica quella cosa. Quindi è già incluso, volevo chiarire questo, è già incluso tutto questo nel DNA spirituale di quella cosa. È sempre nel limite però di quello che è appunto questo DNA, perché per esempio l'acqua può diventare gas, può diventare solido, può diventare liquido, ma non può diventare, non so, un'altra cosa. Ok? In altre parole, questi cambiamenti non corrispondono a un essere non limitati, a un essere, tra virgolette, infinito. Corrispondono a un limite che ha certe definizioni. Anche i cambiamenti. Ok? Esattamente come lo vediamo nella natura. Qui stiamo dicendo, aprendo la finestra su come il DNA spirituale di questa cosa della natura, e stiamo parlando proprio della natura. Il concetto di Memaleh Kol Almin, riempiente di tutti i mondi, riempie, è proprio questo, il senso naturale che HaKadosh Baruch Hu dà alle cose, non il senso sovrannaturale. Quando parliamo di Sovev Kol Almin, circonda tutti i mondi, lì stiamo parlando di una rivelazione che potrebbe essere paragonata ai momenti in cui si vede un miracolo, che noi lo chiamiamo miracolo, ma anche la natura è un miracolo, voglio dire. Allora cosa vuol dire? Vuol dire quando si apre quell'altra modalità, quella che trascende tutte le regole, perché appunto non si limita a quelle regole, e che la maggior parte dei tempi, dei momenti, è celata da noi completamente questo aspetto. L'aspetto di Memaleh Kol Almin non è così nascosto, perché noi possiamo approfondire come stiamo facendo adesso, e in realtà si chiama una cosa rivelata, tra virgolette, perché rivelata vuol dire si rapporta in maniera sensata per noi a quello che è l'oggetto, la creatura, eccetera. Cioè si vede il rapporto tra, come dicevamo prima, diversi tipi di vita, diversi tipi di vitalità, diversi tipi di esistenza. Tutto questo ci indica che il DNA spirituale è limitato in una certa maniera per quella cosa. L'aspetto trascendente è quello che ci sfugge. Perché essendo anche noi limitati da questo aspetto precedente, non abbiamo la possibilità quasi di rientrare nell'aspetto trascendente, che appunto è, sarebbe un travolgimento totale di tutto. Sarebbe una luce troppo forte davanti alla quale magari ci sentiremmo travolti se riuscissimo a sentire qualcosa, diciamo così. No? Volevi fare una domanda? No, stavo pensando. Ok. Allora, quindi tornando al testo, appunto diceva questo, quello con cui ho concluso adesso, che l'aspetto trascendente, Sovev, è troppo elevato, è una, sarebbe una rivelazione troppo grande per rientrare, cioè per essere percepita dai cosiddetti recipienti, cioè da chi riceve, dalle creature, dall'esistenza, perché per la propria, per il proprio limite, per il fatto stesso che è fisico, che è materiale, non ha la possibilità di percepire, di contenere, tra virgolette, una rivelazione di questo tipo. Anche le più elevate forme di creature o di creazione sono sempre, fanno parte della creazione, hanno sempre questo limite, e quindi non hanno davvero una percezione profonda, interiore, dell'essenza di HaKadosh Baruch Hu. È più una percezione dell'esistenza di questa cosa, ma non del conoscere l'essenza. Tu potresti conoscere che qualcosa esiste, ma al tempo stesso non saper spiegare nella profondità che cosa è, o non avere la possibilità di percepirlo in profondità nella propria mente. Questo si chiama, nel linguaggio della filosofia ebraica, Yediat Hametziut, la conoscenza dell'esistenza della cosa. Sai che c'è? Come me quando vedo un razzo che va sulla luna. So che c'è, ma non capisco come funziona. Ho anche tante altre cose meno complicate. So che c'è, nessuno può dire che non c'è, però è una cosa che hai fatto tu a livello intellettuale? Percezione? No. Parlo per me, chiaramente. Però, per tutti, quando parliamo della essenza di HaKadosh Baruch Hu, cioè quello che è rappresentato in questo contesto dall'aspetto Sovev, circondante. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che per ciò che riguarda questo aspetto qui che circonda, tutte le varie differenze che ci possono essere nella creazione tra le varie creature, oggetti e non oggetti, eccetera, non sussistono queste differenze davanti al livello Sovev. Queste differenze non hanno alcuna importanza, perché la lontananza, diciamo così, di questo aspetto del divino è uguale che si tratti di una persona intelligente, o che si tratti di un animale, o che si tratti di un vegetale o di un minerale. È tutto uguale davanti a questo livello trascendente. Come dicevo prima, oscurità e luce è tutto uguale, non cambia, è creazione e basta, è limite e basta. Per questo si chiama circonda, come se circondasse tutto nella stessa maniera, senza inizio, senza fine, senza sopra, senza sotto. Ora fa un ulteriore approfondimento su diversi livelli all'interno di questo livello trascendente stesso. Non è il caso adesso entrare in questa ulteriore, in questo ulteriore approfondimento, però tornando un attimino a Pesach, l'Alter Rebbe spiega qui che a Pesach, come abbiamo citato anche prima, cosa è scritto e da dove viene il nome Pesach? Upassach Hashem al Batei Bnei Israel. HaKadosh Baruch Hu saltò oltre, andò oltre le case dei Bnei Israel. Questa espressione, saltare oltre, è una cosa che vuole richiamare il concetto di Sovev, cioè che HaKadosh Baruch Hu si rivela nella sua essenza in una maniera, possiamo dire, senza precedenti, in una maniera in cui si rivela la grande luce di HaKadosh Baruch Hu, che trascende gli aspetti specifici della creazione. Ecco perché nella Haggadah noi diciamo chi ci ha salvato in Egitto? Cosa diciamo nella Gadah? Lo alie dei Malach, non attraverso un angelo, ve lo alie dei Saraf, e non attraverso un serafino, che è un altro livello di Malachim, ve lo alie dei Shaliach, e non attraverso un agente, Ela HaKadosh Baruch Hu Bichvodo Beatzmo. Solamente HaKadosh Baruch Hu, e usiamo il termine HaKadosh, perché Kadosh vuol dire distinto. Cioè va ad indicare in questo contesto l'aspetto trascendente, distinto di HaKadosh Baruch Hu. In Egitto ci doveva essere questo tipo di rivelazione? Ci doveva essere, tra virgolette, cioè c'era questo tipo di rivelazione, anche perché quello che è accaduto è molto particolare. Cosa è accaduto? La morte dei primogeniti, allora innanzitutto solo i primogeniti egiziani, e non quelli di Bene Israel. Inoltre c'è scritto che possono essere in una famiglia vari primogeniti, perché se una donna ha avuto più di un marito o così via, allora può essere vari primogeniti e... questo sì, questo no, una cosa molto, molto specifica e limitata da un lato. Allora, l'altro Rebbe dice, proprio perché la rivelazione era così trascendente e così elevata, che questo poteva essere effettuato in maniera immediata, in lo stesso momento della mezzanotte del 15 di Nisan, senza alcun momento di attesa e senza alcun problema di andare a cercare nell'anagrafe chi è chi, perché... perché deriva da una cosa che è completamente trascendente. Ora, per quale motivo il Moed di Pesach è fissato proprio nel momento in cui avviene il miracolo, a differenza, come abbiamo detto, per esempio, di Hanukkah e di Purim? Il concetto di un Moed è che in quel momento del Moed c'è una rivelazione divina diversa da quella del giorno feriale. Ecco perché è un giorno speciale, ecco perché è un Moed. Normalmente, perché ci sia il Moed, si richiede l'eliminazione di quanto potrebbe in qualche maniera celare quella rivelazione. Potrebbe essere un impedimento a quel flusso di energia speciale che, perché ci sia un Moed. Ecco perché a Purim prima c'è la vittoria, cioè... a livello spirituale cosa hanno fatto? Hanno ucciso i loro nemici. A livello spirituale cosa vuol dire? Hanno eliminato gli impedimenti perché possa illuminare la luce divina. Come dire, hanno eliminato la klipa, quello che chiamiamo nella Kabbalah la buccia, cioè ciò che cela, ciò che nasconde. La copertura. La copertura, ciò che nasconde. C'erano Amalek, i figli di Amman, i figli di Amalek. C'è qualcosa che a livello spirituale rappresenta una contrapposizione alla Kedusha. Bisogna prima eliminare questa contrapposizione e poi, in automatico, si illumina, si vede la luce. Il Moed segue. Dice, se vuoi entrare in una casa nuova, prima devi pulire. Quindi c'è un giorno di pulizia e un giorno che traslochi e entri nella casa nuova. Ma è impossibile che avvengano le due cose al tempo stesso. Perché visto che si tratta comunque di un'illuminazione legata a Memale Kolalmin, quello che riempie, quindi si rapporta ai limiti di chi riceve, di conseguenza, essendo all'interno di questi limiti, è impossibile fare due operazioni contrarie al tempo stesso, simile a come un essere umano non può fare due operazioni contrarie al tempo stesso. HaKadosh Baruch Hu si limita in quella rivelazione Memale ai limiti della creazione. Di conseguenza due cose opposte non possono avvenire, in teoria, tra virgolette, nello stesso momento. Prima c'è, come c'è scritto nel Shira Shirim, c'è scritto Semolo tachat le roshi viminote chabekeni, cioè la sua sinistra è sotto la mia testa e la sua destra mi abbraccia. Non può essere tutte entrambe le cose nel tempo stesso con un'unica mano. Una mano fa una cosa, una fa l'altra. La sinistra rappresenta il togliere l'aspetto negativo e la destra rappresenta l'inserire l'aspetto positivo. Uno è una mano, uno è un'altra mano. Non posso pulire e apparecchiare al tempo stesso? Prima posso pulire, poi posso apparecchiare. Mentre invece, quando parliamo del miracolo di Pesach, che è stato effettuato attraverso una rivelazione che è legata al concetto di Sovev Kol Almin, e cioè l'aspetto circonda, cioè che l'aspetto trascendente, tradotto meglio, allora questo aspetto trascendente, come abbiamo spiegato prima, non prende in considerazione i limiti della creazione, e di conseguenza quello che è la volontà di Hashem, quando espresso direttamente dall'aspetto trascendente della sua rivelazione, non ha questi limiti. Può avvenire tutto al tempo stesso. Sia l'eliminazione del problema che l'inserimento della cosa voluta può avvenire assolutamente, esattamente nello stesso attimo. Dice, non come alcuni commentatori spiegano che prima della mezzanotte c'era la piaga dei primogeniti e dopo la mezzanotte è iniziata l'esodo, diciamo la liberazione. Dice no, è avvenuto tutto nello stesso momento, proprio perché si tratta di questo tipo di rivelazione. E per questo motivo, tornando all'inizio del discorso, dice il miracolo è festeggiato nel giorno stesso in cui, la festa è festeggiata nel giorno stesso in cui è avvenuto il miracolo. Non serve la distinzione, come in altre occasioni che abbiamo visto, che c'è prima la soluzione del problema e poi il festeggiamento per aver fatto questa soluzione. Avviene sia la soluzione che la festività nello stesso momento, perché la festività che festeggiamo a Pesach è una rivelazione tale che include tutto insieme, perché proprio perché trascende tutto può includere tutto. Quindi si festeggia proprio anche il fatto che è l'occasione in cui, diciamo, Hashem l'energia di Hashem è intervenuta al top, diciamo, per dirla in modo si è venuto direttamente lui dal massimo. Beh, diciamo che nell'Agadah, citavo prima, si dice un po' questa cosa: l'olio dei Malach, l'olio dei Saraf, Akadosh Baruch Hu Bichvodo Ve'atzmo. Si sottolinea questo fatto, che in quella occasione Akadosh Baruch Hu si rivela in questa maniera. Esatto, cioè... sì. Ok, allora invito tutti a sentire la registrazione e approfondire ulteriormente.